בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. לייב. Allora, sono le 21, passate da 2 minuti e qualche secondo. Buonasera da Agostino Spolaore e buonasera come sempre anche dal mio fedele compagno, ma stavolta sono io il suo compagno stasera, vero Maurizio? Sì, buonasera. Ciao. Almeno una volta ogni tanto. Oggi è mercoledì, eccezionalmente c'è anche Agostino questa sera, ma perché come sapete il mercoledì c'è la lunga maratona musicale che comincia appunto alle 9 e finisce a mezzanotte, quindi abbiamo 3 ore e la prima ora la dedichiamo a un'intervista di solito al telefono, insomma. Sì, purtroppo al telefono stasera. Ma ci ha promesso, e non puoi dirmi di no, Max. È vero, è vero. Ha promesso che viene qui, vero Max? Certamente, intanto buonasera Agostino, buonasera Maurizio, buonasera a tutti gli ascoltatori di Blu Radio che questa sera dovranno sorbire questa cosa delle canzoni. Mi fa molto felice, sono molto onorato di essere vostro ospite e quanto prima, infatti, mi piacerebbe moltissimo partecipare live. Beh, insomma, d'altronde il disco si chiama Partenze e Arrivi, quindi tu sei pronto alla partenza e arriverai qui, giusto? Sempre a partire ed arrivare. Certo. Allora, questo è Max Senzioni, appunto, che ci presenterà adesso nel corso dell'ora, insomma, in sua compagnia, questo disco che raccoglie moltissime canzoni, 11 se non sbaglio, esatto. E sono tutte canzoni non sue, ma che lui ha voluto rivisitare con questo classico, come dire, folk americano, giusto Max? Esattissimo, folk americano. Folk americano. Obo, possiamo dire un po' obo. Qualcosina. Un po' obo, dai. Obo. Leggermente obo. Di obo. Ecco, appunto. Allora Max, lasciaci qualche secondo per presentare quest'ora. Allora, questa è Blu Time Live, ovviamente, questa è la voce di Agostino con Maurizio e queste sono le nostre frequenze 88 e 700 e 94 e 600 MHz in modulazione di frequenza. Il nostro numero telefonico in studio è lo 049 875 6423, mentre per i vostri SMS vi ricordo il 346 2320 033 e poi ancora le nostre pagine su Facebook è semplicemente Blu Radio Veneto, una, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita da Alberto Prisco, che è anche il curatore di questa trasmissione di questo momento con Max Senzioni, e quindi lo salutiamo caramente che magari ci sta ascoltando. E, a presto Alberto, ci sentiamo presto. E poi ancora cosa dobbiamo dire, Maurizio? Ciao Alberto! Ciao Alberto! Non c'è qui, magari te lo salutiamo noi. Ma di passo. Niente! Va bene, credo di aver detto tutto, adesso diamo veramente lo spazio a questo Partenze e Arrivi. Allora, Max. Max, hai cominciato molto presto a far musica e hai suonato dappertutto. Il live è una tua prerogativa, se puoi suoni sempre dappertutto. Sì, io penso che se uno nasce con la fortuna di avere questo fuoco indomabile dentro la pancia e non può farne a meno, deve esibirsi dal vivo, perché io penso che sia una bella cosa, anche perché secondo me il live non morirà mai. No. Un po' come il rock non morirà mai, il live fa parte di tutto quello che, come dire, tutto quanto è rock, no? Dicevo un mio vecchio amico chitarrista, cantante, tuttora fortunatamente c'è, lui ha sempre detto questa frase, nel suo inglese o tedesco, diceva sempre Max, tutto quanto è rock! Diceva sempre così, no? Dicevo, cavolo, hai ragione. Detto così poi non posso darti altro che ragione. Lo diceva anche Shel Shapiro, Max, te lo ricordi? Quando si presentava altro con i Rocks, mangiava l'italiano con l'inglese, Shel Shapiro. Esatto, io l'ho avuto la fortuna di incontrarlo, Shel Shapiro, ma la persona di cui parlavo in questo momento, e lo conoscete senz'altro, si chiama Groth Truth, era uno dei Kim and Cadillacs. Ah, certamente, esattamente. Quello con i Ray-Ban e i capelli lunghi, altissimo, il più alto del gruppo, Groth Truth. Ho capito. Grande rock and roller, uno di quelli veri. Uno di quelli veri. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, non solo, di passare serate suonate con lui. Quindi ho imparato da lui una filosofia verissima, quella che, insomma, il live, se c'è live devi tu, a proposito di live, hai fatto 7 anni ai Biblos Club, uno locale famosissimo a Milano. Altro che, cioè, uno dei primi più belli della mia vita, Brera, in via Madonnina c'era questo club, Biblos, che praticamente, dove praticamente transitavano personaggi della musica folk italiana e non, e la gente, e la gente che veniva ad ascoltare la musica di quelle sere veniva apposta per ascoltare quel mondo musicale. Certamente, quello era una cosa molto positiva, che la gente veniva a sentire e non a qualcosa da sentire la musica sentire. Che si suonava all'epoca, chiaramente. Sì, e poi il discorso che di Max è molto interessante, perché lui ha rivisitato, se mi è consentita l'espressione, ha rivisitato dei grandi hit italiani in chiave folk americano, cajun in alcuni momenti, Max. Sì, è vero, cajun, perché per esempio Bella Impossibile, che poi io la chiamo Bella Impossibile, ma poi in realtà è Bello Impossibile, l'ha scritta la Nannini, Bello grande, Impossibile. Esatto. Io poi chiaramente la canto Bella Impossibile essendo un maschietto, Bella Impossibile, anche perché mi piace questa cosa, quando è nata questa cosa mi piaceva un sacco questa immagine di questa banda di ragazzi là sotto al palco di una bellissima che dicevano bella impossibile, così, che proprio dannati, no? Io immaginavo sul palco una bravissima e bellissima, secondo me, come Sheryl Crow, andiamo su qua. Piace tanto anche a me, esatto. Quello quegli altri che belle poverini, però in ogni caso è brava anche la Nannini, trasgressiva come personaggio. No, è bravissima, cavolo, lei l'ha scritta questa cosa, appunto. Ci mancherebbe, lei è un'icona, altro che. E che tu sei un'icona, c'è un'enciclopedia, se sfoglio tutti i fogli che ho qua davanti, tutte le cose che hai fatto fra televisive, radiofoniche e suonare sul palco, andremo fino a domani mattina, caro Max. Well, ti ringrazio molto, sei troppo buono, molto, molto, molto buono, mi fa piacere, ho fatto qualcosa. Qualcosina, vorrei... ma tanta cosa. bisogna sempre andare avanti. No? Ma certo, certo. In questo mestiere qui, come in tutti i mestieri, sono li fa con passione, no? Certo. Come voi che fate con grande passione i DJ, noi siamo speaker, no. Siamo speaker, non DJ. Scusami. I DJ. Sono già in ginocchio col spasso di cenere. Allora, cominciamo ad aprire il disco, caro Max. Ti faccio un regalo, Max. Facciamo un regalo. Ti faccio ascoltare una canzone e poi ne parliamo, va bene, Max? Va bene, grazie. Con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bella, bella e invincibile. Con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Girano le stelle nella notte, Dio. Ti penso forte, forte, forte, ti vorrei. Bella, bella e impossibile. Con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Con gli occhi neri e col tuo gioco micidiale. Non conosco la ragione che mi spiegherà, perché non voglio più salvarmi dalla libertà. È una forza che mi chiama sotto la città, e se il cuore batte forte non si fermerà. E all'alba amore nasce col sole, così. All'alba il sole ti dirà che è così. Bella, bella e impossibile. Con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bella, bella e incredibile. Con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Girano piange l'emozione e non so perché. Oltre il bacio della folla vedo solo te, mentre corro nel tuo sguardo sotto la città. E non voglio più, mi arrendo, chi mi salverà? E all'alba amore nasce col sole, è così. E all'alba il sole ti dirà che è così. Sapore medio orientale, bella, bella e invincibile, con gli occhi neri e col tuo gioco micidiale. Scoppia nella notte il sentimento ed io ti sento forte, forte, forte e ti vorrei. E sei bella, bella e impossibile. Bella è impossibile. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Mi sa che la conosci questa canzone, vero Max? Mi è sembrato così di averla ascoltata qualche altra volta, qualche parte, ma non ricordo cosa sia e chi l'abbia fatta. Ecco, esattamente. C'è qualche aneddoto su questa canzone, a parte quello che ci hai raccontato prima? Ma guarda, nasce così proprio molto, molto goliardicamente, con la chitarra in mano, come nascono sempre queste cose, giocando con la chitarra e niente, un po' la prima che nacque goliardicamente fu proprio, c'era un ragazzo che come me ascoltiamo, che poi sentiremo Max più avanti. Poi nacque questa così, perché a me piaceva un po' la storia di prendere delle canzoni non misurate da maschietti, insomma, cioè canzoni prettamente femminili. Rock, però così citate invece da un maschietto in un'altra versione, e quindi mi ero già cimentato con altre canzoni così con la chitarra in mano. Poi un giorno ho preso questa qua, Bella Impossibile, ho detto cacchio, questa mi viene bene, mi piace, mi diverte un sacco, e allora l'hai messa. Niente, l'ho fatto. L'hai dato una versione folk, sì, il folk americano, indubbiamente, ma il folk americano che deriva dall'Irlanda, molto Irlanda, molto irlandese, molto da muoversi, molto da ballare. Sì, molto da ballare, benché poi il ritmo della batteria, qualcuno mi disse dopo averla fatta, che era cajun proprio. Beh, il anche quello può anche essere, sì. Guarda che è cajun questo qua. Dico, ah sì? Va bene, se lo dici tu mi dico, ok, va bene, ok, d'accordo. Beh, ti sei divertita a farlo, chiaramente. Assolutamente, molto. Un pezzo bello, musicalmente molto rocchettaro, chiaramente. Tu l'hai rivisitato a tuo piacimento, a tuo divertimento soprattutto. Certo, e spero che diverta anche. Ma certamente, ma tu hai fatto un sacco di cose, hai inciso anche un 45 giri, innanzitutto hai suonato con Garbo all'epoca del grande Garbo, quindi New Way Italiana, New Way Italiana, certo, cari certo. ascoltatori, assolutamente, cavolo. Nell'88, vero? Italiana. Esattamente. Sì, era Garbo al secolo, Renato Abate. Esattamente. Che niente, mi vuole con sé come suo vocalist e chitarrista, insieme ad un altro chitarrista, tutta la band, le nate varie, nel tour proprio di quando scrisse Radio Clima. Esattamente, che è il loro pezzo più, che è la sua icona praticamente, esatto. Una delle sue icone. E io fui molto felice, fu un bellissimo tour, fu il mio primo tour con un cantante, insomma, di successo. Di quel momento io seguivo, come tutti i ragazzi dell'epoca, la New Wave inglese, no? Questa bella, certo, ondata e avevo una band che faceva queste cose, e lì mi notò, non so, in questo non ricordo più perché sono passati. Cioè, dell'88, anni. Caro Max. Esatto, adesso io ho 284 anni, quindi sono passati parecchi anni. Ma li porti bene, però, li porti molto bene. Beh, e con lo spirito. Dietro la lettere della radio, sicuramente sì. Tanto non mi no, comunque, niente, è stato molto divertente, una bella esperienza, bellissima, l'esperienza ricordo con molto piacere. E niente, poi da lì sono nate altre cose. Ma hai fatto tante cose, hai suonato anche con Alberto Radius. Chi è Alberto Radius? Sì, chi non lo Alberto sa, è uno dei più grandi, uno dei più grandi chitarristi italiani. Cavolo, una leggenda, Alberto Radius la Formula 3. Esattamente, una leggenda vera e proprio, una leggenda italiana. Una leggenda, sì, un amico, anche lui incontrato. Allora, Brera a quell'epoca era veramente un ritrovo per musicisti e amanti della musica, ma soprattutto anche di tanti musicisti, proprio quelli veri, quelli del settore, che appunto transitavano in questi locali, e quindi capitava sempre comunque di conoscere questi personaggi. Io lì dentro ho conosciuto una parola grossa, ho avuto l'onore di incontrare e magari di cantare qualche canzone anche con personaggi tipo Paul Young, tipo Love Steve, tipo Andy Summers, il chitarrista dei Police. Insomma, transitavano queste persone qua, no? Questi grandi personaggi. Quindi quando entrano, bevono qualcosa, si siedono lì, e dopo un po' ti viene di chiedergli: senti, dai, ascolta, come va la vita? Così, molto bonariamente. Questi ogni tanto volevano anche suonare qualcosa con noi, perché vabbè, noi eravamo dei ragazzi molto entusiasti di quello che facevano, ci mettevamo tutta la nostra grande volontà e il nostro entusiasmo, e quindi anche in quei casi le cose vengono anche, sai, bene, no? L'entusiasmo ti fa fare le cose bene con un sacco di verità, ecco. Una cosa che hai fatto molto bene, io sono molto contento che tu l'abbia fatto, hai ripreso, hai rivisitato uno storico pezzo dei Profeti, che non era dei Profeti ma era di un'altra band, e poi i Profeti l'hanno fatta in italiano, esatto. Gli Occhi Verdi dell'Amore, 1968. L'autore degli Occhi Verdi dell'Amore, per chi non lo sa, è l'autore di Wild Thing, dei Trogs, quindi è Chip Taylor. Esattamente. Allora, quest'uomo sa tutto. No, mi sono informato, di più. Caro Max, no, mi sono informato. Tu sei uno molto informato, giustamente fai molto bene a esserlo. Io lo so, dopo che l'ho fatta, sapevo che era una cover, no? Però sì. quel pezzo lì, stranamente, a differenza di tante cover, come tutte negli anni 60, che si erano fatte e che conoscevo, tipo Blackberry Way, sì, che era per me la città, certo, cose qua, sono andato ad ascoltarmela su YouTube, perché non l'avevo ancora sentita nell'originale. Bella, l'hai sentita la versione di P.P. Harland tu, allora? Esatto, quella che fece un hit in Inghilterra, e poi arrivò, i Profeti l'hanno ripresa da quella versione, chiaramente. Esatto. Ma tu ne hai fatto un'ottima versione, caro Max. Io e Agostino siamo stati molto contenti di averla ascoltata. E allora ascoltiamola. L'ascoltiamo. Una ragazza che era sola come me. Aveva il viso di un bambino, aveva tutto, non sai perché. Aveva gli occhi dell'amore, verdi come come rondini perdute. vissuto mille anni nello spazio di due ore. Quando un mattino ci ha svegliati, senza parlare l'ho baciata. Live 21:25, sempre con Agostino Spolore, con Maurizio Calzavara, ma soprattutto con Max Senzioni, con questa partenza, che è meglio dire, e arrivi. Io volevo già chiederti una cosa, Max: come mai hai pescato proprio queste 11 canzoni? Hanno dei significati particolari nella tua vita, nella tua gioventù, che ne dico, la tua, come dire, a fianco a te a livello affettivo, c'è qualcosa, c'è qualche storia, c'è qualche motivazione particolare? Ma, guarda, sono canzoni che comunque legate a me in qualche maniera, perché sono canzoni che mi sono sempre piaciute, alcune magari non le avevo neanche magari mai, come dire, non avevo considerato alcune canzoni che man mano vengono fuori, pensando di poter fare un discorso in una certa maniera, in questo caso questo folk americano. Alcune sono legate a me, appunto sentimentalmente, tipo Porta Romana è una canzone che sono milanese, legata a me in qualche maniera, perché fa parte della storia della canzone milanese, come dire, d'autore, ma in realtà non portando un vero autore, diciamo che è un tradizionale, no? Il traditional, sì. Come esistono molti pezzi americani, che ha ripreso anche molti autori americani, molti cantatori americani grossi. E altre canzoni vengono così, sono nate perché, pur conoscendole, magari avendole suonate un milione di volte, certo, nella versione originale, perché non provare a farle in una maniera diversa? Ecco, tutto è nato tutto un po' come un gioco ricerca. Non è nato in un minuto, è nato ormai quasi 5 anni fa come progetto, lavorandoci assiduamente, veramente con enorme impegno, e quindi niente, è nata questa cosa. È chiaro che potendo fare un album di 30 brani, uno braccerebbe tante altre cose. Io ho cercato di così fare un piccolo riassuntivo di certe cose, infatti appunto poi faccio delle cose che sono anche, come dire, molto così da cacciara, mettiamola così, sì, no, romanescamente, altre un po' più intimiste, altre molto intimiste, appunto chiudendo, cioè parto con un pezzo come Bello Impossibile, molto molto largo, molto popolare, e arrivo con una cosa come Porta Romana, sì, che è molto popolare, ma nella versione che ho fatto io è una cosa molto intimista. Esattamente. Ho voluto dare un piccolo quadrettino di quello che volevo fare io, con che cosa? Con delle canzoni molto famose, però reinterpretate appunto in questa chiave folk americana. Ma questo che hai appena detto è uno spiffero per un Partenze e Arrivi 2? Ma chi può dirlo? chi vivrà vedrà. Ah, ecco. C'hai mezza intenzione, però di la verità, confessa. Ah, beh, guarda, se fosse per me io farei anche il 3, 4, 5, 6. Purtroppo sappiamo tutti che di questi tempi non è così semplice, certo, soprattutto quando non hai le spalle coperte. Esattamente, non hai le spalle coperte. No? Però grazie a personaggi come voi e a strutture come la vostra radio, veramente grazie, che date voce anche a quelli come me che provano a fare delle cose leggermente diverse da quello che è il panorama, la fotografia della musica italiana. Che noi, perché caro Max, sono tanti come me, certo, non è che sono solo io. Ne sappiamo, no, qualcosa noi. Qui. Noi abbiamo le spalle coperte dalla musica, Max, è quello che serve, so, basta quello secondo me. È fondamentale. A proposito di musica, tu hai suonato per 5 anni consecutivi in un programma televisivo famosissimo, dal 99 al 2004, era il cantante solista della band di Passaparola. Che esperienza hai avuto in 5 anni a cui hai cantato centinaia di canzoni? Posso dire una cosa? Dimmi. Mi sono divertito un sacco! Perfetto. Beh, è stata una bellissima esperienza per un sacco di motivi. Io lavoravo già in televisione da tanti anni, per Mediaset, qualche volta anche per Rai, ma quella è stata la trasmissione che in qualche maniera mi ha messo davanti al monoscopio, no? Sì. Davanti alla telecamera. Sempre le altre volte ero nella grande band, però mai vista questa cosa qua, invece ero lì davanti e cantavo, ero lì davanti e in qualche maniera mi ha dato molta visibilità, che mi ha fatto molto piacere, un altro modo di esprimermi su tante cose, perché chiaramente lì fai di tutto, canti dalle canzoni più disparate, no? Questa è una grande scuola, impari molto. Io sono arrivato lì che per anni, anzi per tutta la vita, avevo quasi sempre cantato canzoni in inglese o in americano, c'era discografia inglese e americana, pur amando Lucio Battisti e tutta la schiera di grandi autori italiani, ma li interpretavo poco dal vivo. Quella è stata una grande scuola, perché mi ha messo davanti al fatto compiuto di dover cantare comunque e al meglio delle tue possibilità, perché sei davanti a te, dei telespettatori che da te si aspettano qualcosa. Certo, certo. Le canzoni italiane, io ho cominciato ad apprezzare un sacco di canzoni italiane leggendo il testo per doverle imparare, dicendo cavolo, ma che grande canzone è questa qua, non l'avevo mai considerata, perché non me ne ero mai accorto ascoltando per la radio che avesse un grande testo così. Certo. Grande scuola, grande divertimento, tutto, Jerry, tutto, una bella cosa, mi sono divertito molto, è stata una bella esperienza. Benissimo, noi adesso abbiamo scelto altri pezzi, io mi sono fermato a un pezzo che tu hai citato prima, C'è un ragazzo, c'è una piccola storia, la leggenda metropolitana dice che Gianni Morandi abbia sentito sto pezzo in una trattoria a Roma e lo pezzo lo suonava Mario Lusini. Poi gli piaceva, decise l'arrangiamento con Morricone e molti non lo sanno che sono uscite due versioni di questo pezzo nel 66. Una prima versione e una seconda versione con la fisarmonica, che poi, cioè, sono oggetti da collezione in ogni caso. Però Max l'ha reinventata, questa cult degli anni 60 l'ha reinventata a sua maniera. Ricordiamo che poi l'ha incisa anche a John Baez, è diventata una canzone pacifista. Max, perché l'hai reinventata in questa maniera? Allora, io trovo che questa canzone qua sia una canzone che fosse già nata all'epoca in una maniera, come dire, folk. Era già folk in sostanza. Anche se l'arrangiamento bellissimo del grande maestro Morricone all'inizio fa quella frase plino, cioè molto, che io ho una versione fatta così, incisa, mantenendo questa frase fatta però col violino, ce l'ho nel mio cassetto, io ce l'ho. Però sempre folk, intendo. Certo. Comunque trovo che Morandi abbracciò in quel momento, prima di tutto appunto con questa canzone qua scritta da Luisini Migliacci. Esattamente. L'autore del testo era Migliacci. Quello che scrisse le parole di una grande canzone che ha fatto il giro del mondo, no? Sì, e quella di... Del blu dipinto di... Esatto, di Modugno e Migliacci, esattamente. Di Modugno, esatto. E poi cantò Morandi in quelle altre canzoni tipo Una non te dirla mai, sì, Mondo d'amore, sempre qua, di Migliacci, Mondo anche d'amore, folk, il folk comunque, no? Esatto. Poi arrivò quella canzone scritta da Ron che era bellissima, Occhi di ragazza, che era un po' Everybody's Talking, no? È vero, bellissimo, giusto. L'uomo da marciapiede, sì. Insomma, tutto quel mondo americano che a me io amo, no? Niente, io ho sempre cantato questa canzone di C'era un ragazzo e poi appunto un bel giorno, fu la prima, riallacciandomi al discorso di prima, giocando un giorno con la chitarra in mano, mi venne così, da Quito, di farla con questo movimento in levare, quindi che dava adito al chiamiamolo canzone, insomma, folk, così, anche perché io ripeto, sempre masticato sto mondo, ho cominciato ad esibirmi a 17 anni nei club, come il Beatles, cantando... Mr. Tambourine Man, piuttosto che Blowing in the Wind, piuttosto che Colors, piuttosto che ne so, insomma, tante, Heart of Gold o Harvest, queste canzoni qua, no? Quindi la West Coast... Ce l'hai nel sangue, la West Coast. Ce l'ho nel DNA, esattamente. Mi piace molto, quindi è nata così. È nata così, speriamo che piaccia. Anche no, è piaciuta a noi moltissimo e sicuramente anche agli ascoltatori. Allora, ascoltiamo Max, lui era un ragazzo quando Gianni Morandi cantava. Perché bisogna dirlo, io era veramente un ragazzo. Allora, c'era Max Senzioni, ma c'era anche Gianni Morandi che cantava C'era un ragazzo, che come me. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. E non era bello ma accanto a sé aveva mille donne in sé, cantava Help e Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Oh Yesterday. Cantava viva la libertà, ma ricevette una lettera, la sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop con il Rolling Stone, stop con il Beatles, stop. Gli han detto vai nel Vietnam e spara. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones, girava il mondo ma poi finì a far la guerra al Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra ma uno strumento che sempre dà la stessa nota, ratatata. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù, al suo paese non tornerà, a nessun morto nel Vietnam. Stop con i Rolling Stones, stop con i Beatles, stop nel petto un cuore più non ha, ma due medaglie o tre. Adesso però il ragazzo è cresciuto, è diventato adulto e, e fa dischi. Complimenti Max per questa grazie canzone che abbiamo ascoltato. Ma si diverte sempre a fare un po' di bluegrass, ma Max fa bene alla salute, sì. Bluegrass, cosa dici? New Purple Sage of... D'allegria, no? Un po' da allegria, da movimento. E cioè, secondo me in questo pezzo c'è un po' di Bob Dylan, c'è molto Donovan nel giro di acustico che tu fai e c'è molto Max. È divertente, è una canzone pacifista, importante, fondamentalmente innovativa, l'hai rivisitata e corretta in modo innovativo, reinventandola, e non è mica semplice diventare un'icona, caro Max. Guardi, io ti ringrazio molto del complimento e mi sono divertito molto, e quindi mi auguro di poter andare avanti così, insomma, di riuscire ad andare avanti, e perché no, di fare il mio sogno è quello di fare dei grossi live con tanta gente che viene a divertirsi ad ascoltare queste cose. Ma ne stai già facendo di concerti con questo disco? Guarda, io sarò molto sincero. è inutile raccontarsi le grandi. No, cioè, facciamo delle cose, però non abbiamo un management importante che ci faccia fare delle cose come dovrebbero essere fatte, secondo me, senza peccare di niente alla fine. Cioè, il disco parla da sé, può piacere o non piacere, però è un prodotto divertente, carino, fresco, fatto, confezionato bene. È una cosa che non c'è in questo momento, posso così vantarmi di dire, o pecco di vanità, non so, ditemelo voi. No, sicuramente non c'è, assolutamente, non esiste. Esatto, però perché non divulgarla, perché non farla sentire la gente, perché non andare a fare live belli, grossi, con un sacco... Cioè, per farli belli, grossi, sapete benissimo, voi meglio di me, che ci vogliono dei management che organizzino delle cose fatte come... Beh, ma con tutte le conoscenze che hai, magari fai una telefonatina a Fiordaliso, vengo anch'io se viene lei. grande lei, Marina, grande professionista. Ciò che hai cantato, ciò che hai collaborato anche con lei. Certo, ho collaborato con lei, è una grandissima professionista e certo. Le voglio bene, le auguro ancora più lunga carriera di quella che già ha, giustamente, è tutta meritatissima. Certo. Senti Max, ti interrompo un attimo quello che è il discorso inerente al tuo disco, perché ti porto i saluti di Alberto e dice: salutami tanto Max, digli che lo sto ascoltando e che il suo disco è stupendo. Grazie, Prisco è un grande, ti ringrazio molto, lui è stato il contatto appunto per poter arrivare fino a voi, è stato una bella cosa, a lui è piaciuto subito il disco, a me fa molto piacere. Bene, sono contento. Ciao Alberto, buona serata. Alberto, ti ha già detto la data quando verrai dal vivo? No, perché, guarda, io arrivo, io arrivo, però voi non dovete aspettarvi questo tipo di suono, chiaramente, perché se arrivo da solo non posso far suonare dobro, banjo, mandolina, tutto insieme. Guarda, con la mia chitarrina e la mia armonica a bocca, e sono più vicino a al vecchio Dylan e Donovan. Esattamente. Che... Non fai altro che portarti Roberto Gualdi alla batteria, Marco Ricci al contrabbasso, Lucio Fabri al violino, mandolino, basso elettrico. Lucio, violino, Fabri, quindi. Scusami. È una gran band, quella è una gran band. Una grandissima band. Poi la ricordiamo. Comunque. Una grandissima band. Sono quelli che hanno collaborato nell'album. Grazie ancora a loro che hanno collaborato nell'album, il maestro Lucio Fabri che ha suonato il violino in quasi tutti i brani, tranne, ci tengo a precisare, il brano Bello e Impossibile, il violino ha suonato un personaggio che da voi penso sia già arrivato tempo fa, Stefano Zeni. Sì, sì, mi pare sì, sì. Sì, è passato, sì. È passato un po' di ha tempo. Ha fatto un live da voi. Sì, è passato. Lui è un mio amico, ha suonato lui in Bello Impossibile, io non l'ho suonato lui, ed è quello che avete ascoltato prima. Ah, benissimo, benissimo. Senti Max, io sapevo che tu facevi un disco e mi facevi un gran regalo. Eh sì, caro Max, stai attento a quello che ti dice adesso ad Agostino, Max. Non ti dico niente, ma ti dico che hai messo una canzone di una band... di cui io sono molto, ma molto, come dire, affettivamente legato, perché è stata la musica che mi ha accompagnato tutta la mia gioventù, la mia infanzia, insomma, fino ai giorni nostri. Tra l'altro in questi giorni mi sono sentito proprio con uno dei componenti. Come mai hai scelto Piccola Katie? Cacchio, Piccola Katie, gran pezzo, Piccola Katie, proprio lì era beat, proprio. Sì. Io ricordo quando ascoltai per la prima volta Piccola Katie ed ero in fasce, dobbiamo sottolinearlo questo. Era proprio quella cosa che, come dire, ascoltavi i Beatles e ascoltavi poi Piccola Katie, cioè nel senso, la risposta italiana era questa cosa qui, no? Poi a me venne, siccome trovo che il testo, adesso qui vabbè, tiratemi pure delle grandi forchettate, trovo che il testo di Piccola Katie sia un testo più importante di quello che si pensi, secondo me. In che senso? Nel senso, cantato in maniera, adesso qua sto dicendo, adesso qua mi Riccardo Fogli mi sparerà in faccia. No, nel senso che quando non è una cosa che invento io, normalmente quando si cantano le canzoni in maniera più spedita, veloce e serrata, si presta meno attenzione al testo. Vero? È normale, certo. È così. Allora, siccome io un bel giorno, avendo ascoltato Piccola Katie 700 milioni di volte, non avendo mai preso in mano il testo leggendolo su un foglio di carta, quando l'ho letto per la prima volta sul foglio di carta ho detto: ah, ma questa canzone qua secondo me ha un testo più importante di quello che sembra. Ho capito. Nel senso, di quello che... E allora io ho detto, io la faccio più lenta, e l'ho fatta diventare uno slow, un valzer. È quasi un valzer, effettivamente, sì. Esatto, un valzer io l'ho fatto nel mio piccolo e nella mia, come dire, pazza idea, per citare un'altra canzone che... che non hai incluso in questo disco. Che però. Non hai incluso, ma come secondo me... avrebbe potuto, magari poi no, ma anche sicuramente forse no, perché Bob Dylan avrebbe detto: ma che cosa vuoi fare? Però come secondo me l'avrebbe fatta Bob Dylan negli anni 70, quando fece Sara, ti dico, Sara, sì, certo. No? Come no? In Desire, esatto. E io ho detto, ma a me piacerebbe, no, aspetta, non è che ho pensato prima a dire, prima l'ho fatta così, poi ho detto, secondo me, poi perché no? Poteva essere una scusa anche dilaniana. Sì, poteva dire. Anche essere. L'ho interpretata così, sì. Punto. L'ha interpretata però, bene. Basta, non vado a dire. No, hai citato Dila e noi siamo molto contenti. Assolutamente. Quando citi Dila, citi il massimo, quindi. Allora, ci ascoltiamo questa ragazza che all'epoca aveva 16 anni, tornava a casa e non aveva nessuna scusa, quindi poteva, perché la porta era aperta, poteva entrare tranquillamente. E non so se Max lo sa, ma penso proprio di sì, perché si sarà documentato. Questa canzone nel riff ha preso spunto da un pezzo dei Beatles, di Revolver. Da God to get you into my life. Esattamente. Yes. L'ascoltiamo. Piccola Katie. tutte le bambole con cui dormivi e il tuo diario che sempre riempivi solo con ciò che faceva piacere a chi di notte l'andava. Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Blue Time Live. Live. Ma non mi hai fatto il parlato però all'interno della canzone, eh? L'ho fatto il parlato? Non hai fatto il parlato. Devo fare il parlato? Eh sì, devi fare anche il parlato. Ah sì, di quale parlato? Quando lui dice piano piano, sai... Ti ricordi? La versione originale o te la ricordi? La versione originale? No. Ecco. Dimmela. Cioè... Dimmi, beccato in castagna, manca, dimmi. Cosa ti devo dire? La canzone qual è? Il testo, quando dice, quando parla, che invece di cantare parla. Recita praticamente. No. Io in tante canzoni ho evitato, cioè ho fatto dei tagli. Ah, ho capito. Per esempio, anche in Bello Impossibile. Mm-hmm. Manca una... Ma guarda che stavo scherzando, troppa. Max. Max, stavo scherzando io, Cosa? No, stavo scherzando. Lo sapevi già. Che ho tagliato la strofa di Bello Impossibile. No. No, parlavo di Piccola Katie, dicevo io. Ah, no, di Piccola Katie, guarda, no, in realtà non lo sapevo neanche, cioè, nel senso, non l'ho fatto apposta, è stata evitata così, ma sono stato sempre solo sulle, come dire, sulle melodie, non ho mai fatto per dire, guarda, se nel programma io devo fare in questo album qua, volevo mettere una canzone di Enzo Iannacci, del grande Enzo Iannacci, che era Scar del tennis. Ah, no? Ah sì. Siccome alla fine lui fa tutta questa strofa parlata, sì, del, che il barbone, no? Sì. Che parla al signore che si ferma per dargli un passaggio, no? E siccome questa cosa qua era talmente bella ed è bella solamente secondo me se l'avesse fatta il grande maestro Enzo Iannacci, che ho evitato di metterla nell'album. Perché l'avevo già provinata in questa versione qua, col suo benestare peraltro, perché io lo chiamai, perché avevo collaborato con lui anni addietro, ho avuto la fortuna di conoscerlo, aver fatto piccole collaborazioni con lui. Però non mi piaceva questa cosa di non mettere questo recitato del grande Iannacci, che non l'ho mai fatto. Poi però in seguito ho sentito anche una sua versione non con il non recitato, e ho pensato, beh, avrei potuto magari farla così, però poi non è stata fatta, fa niente, magari in un futuro. Ritornando a Piccola Katie, secondo me l'hai cantata, vediamo se sei d'accordo, come Gian Pieretti. Qui nella traccia del disco c'è un pezzo di Gian Pieretti, famosissimo Pietro, perché Gian Pieretti, c'è una particolarità, è stato il Donovan italiano, forse nessuno lo ricorda, assolutamente il Donovan italiano, e il famoso Celeste è una riproposizione alla Gian Pieretti, alla Gianco, di Atlantis, di Donovan. Esatto. E tu l'hai cantata alla Max Cenzani con lo spirito da obo alla Gian Pieretti. Senzio, lo so che è un cognome ostico, ma è Senzio. Senzio. L'hai cantato in quel modo alla obo, cioè proprio al cantastoria americano, e nella tua versione. Secondo me ricordava in senso positivo Gian Pieretti, era un grandissimo personaggio. Era un grande, cioè io sono solo onorato di ricordare i grandi maestri italiani. Gian Pieretti ha appunto fatto anche questa versione italiana di Harvest. Esattamente, è bellissima, molto interessante. Esatto. Purtroppo qui in Italia siamo un paese un po'... Dimentichiamo, caro Max, spesso e volentieri. 29 settembre, Mogol Battisti. 29 settembre, Mogol Battisti, il primo pezzo psichedelico assolutamente scritto da Mogol Battisti, rivisitato in chiave dal principe, caro Max, dal principe, da Vandelli. Grandelli, grande principe. E grande principe, bravissimo a arrangiare, a stritolare i pezzi, a ridurli come voleva lui. E Max, come hai perché hai preso 29 settembre? Un'altra icona molto importante. Bella domanda. Allora, 29 settembre, eravamo in studio, eravamo lì che ci guardavamo in faccia, io e Lucio. Volevamo fare una canzone che non avesse, nel senso, ognuna di queste canzoni qua, in qualche maniera, nella nostra zucca, soprattutto nella mia, che ho già quasi preparato tutto come preproduzione, c'era già nella mia mente una parvenza di folk americano, forse solo nella mia mente in realtà. Ma 29 settembre, che era proprio un pezzo psichedelico, cioè, assolutamente psichedelico, vedi? Assolutamente. Cioè, con la grande Keep, insomma, questa roba qui, il grande Lucio Battisti, il grande testo di Mogol, questa roba qua. A un certo punto eravamo lì e abbiamo detto, ma perché invece di essere proprio, perché non stiamo su qualcosa che è sì il folk americano, ma quello un po' più moderno, quello magari che potrebbe essere quello di Ben Harper. Poi in realtà di Ben Harper non ha nulla questo pezzo qua, ma noi l'idea, l'idea nacque da una frase di chitarre in quella maniera lì, e niente, abbiamo fatto 29 settembre così, ci è piaciuta, l'abbiamo tenuta, basta, questo è. Ok, piccolo Max, fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo che ieri alla festa, che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci? In quel caffè io non pensavo pensavo a te. Guardavo il mondo che girava intorno a me. Poi d'improvviso lei sorrise. E ancora prima di capire mi trovai sotto braccio lei, stretto come se non ci fosse che lei. Vedevo solo lei e non pensavo a te. E tutta la città correva incontro a noi. Il buio ci trovò vicini. Un ristorante poi di corsa a ballar sotto un braccio lei, stretto verso casa abbracciato lei, quasi come se non ci fosse che, quasi come se non ci fosse che lei. Mi sono svegliato e sto pensando a te. Ricordo solo che ieri non eri con me. E il sole ha cancellato tutto. Di colpo volo giù dal letto e corro lì al telefono, parlo, rido e tutto, non sai perché. T'amo, t'amo e tutto, non sai perché. Parlo, rido e tutto, non sai perché. T'amo, t'amo e tutto, non sai perché. Parlo, rido e tutto, non sai perché. Il Veneto nei giornali. Da lunedì a venerdì alle 8:15 le notizie in prima pagina sui quotidiani regionali. Il Veneto nei giornali. Con gli aggiornamenti sul meteo e la viabilità del Veneto. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Eccoci qua. Max. È partito. Max che è partito. Lo rintracciamo. Lo rintracciamo subito. È una versione molto bella, questa di un classico 29 settembre dell'Equipe 84, un pezzo scritto da Mogol e Battisti, e poi hanno ripreso l'Equipe 84. E l'importanza di questo pezzo è la versione, gli arrangiamenti, la creazione che ne ha fatto il principe Vandelli. Vandelli era un personaggio molto importante nel panorama musicale italiano. Era un arrangiatore e un creatore di suoni. Primo che ha usato il sitar, prima band italiana che ha usato il sitar fu l'Equipe 84. L'Equipe 84 aveva la caratteristica di avere degli locali dove c'era il merchandise, vendevano i ricordi dell'Equipe e si vestivano molto agli anni 60 come i Beatles. Aveva una Rolls Royce gialla come la Rolls Royce di John Lennon, ma sono cose molto belle che appartengono al passato ma fanno piacere qualche volta ascoltare. Vero Max, cosa dici te? Ci sei, Max? dico che la Rolls Royce non l'ho mai avuta. Lo so che non tu non hai mai avuto la Rolls Royce, però Vandelli, l'equipe l'avevano all'epoca. Ecco, all'epoca, beh, erano come molto i Beatles, famosi. Come i Beatles. Anche come i Beatles, sì, avevano la Rolls Royce, come John Lennon. Avevano, ma certo, avevano fatto addirittura a Milano una catena di negozi esattamente come esattamente, esattamente, Beatles, proprio così. Avevano anche i si chiamava Equipe 84, la ginseria. Esattamente. E avevano anche inciso l'inno del Modena all'epoca. Lo esatto. Ah, beh, per forza, perché poi Vandelli è modenese. Esattamente, l'arno di quelle parti. Adesso siamo verso la conclusione. Noi abbiamo scelto di far ascoltare due pezzi. Il primo è Impressioni di settembre. Perché? Perché Impressioni di settembre, Lucio, violino Fabri, ha suonato un sacco di volte con la PFM. Certo che... E come mai un pezzo, questa bellissima icona, non più degli anni 60, ma un po' più tardi, hai scelto un pezzo meraviglioso, Impressioni di settembre, da un album meraviglioso che è il primo disco prog della PFM? Guarda, perché intanto era un pezzo che mi piaceva moltissimo, e poi mi piaceva molto questa idea di dover fare la frase portante del brano, da uno strumento così innovativo negli anni 70 come il Mini Moog, esattamente, a un mandolino. Bello, no? Sì. Mi piaceva troppo questa cosa qua, infatti appena io già ce l'avevo nella mia testa malsana di sentirlo col mandolino, e allora e lui si è messo lì, e quando l'abbiamo sentito mi ha detto cavolo, è bellissimo, è esattamente come girava in testa. Poi da lì si apre e si aggiunge la frase di violino, la fisarmonica, tutto quanto, ma mi piaceva questa proprio cosa strana, appunto, da uno strumento super mega moderno per l'epoca degli anni 70, ma che comunque è rimasto certo uno strumento a sé moderno, certo, nei moderni, a uno strumento, come dire, antico, di lutteria come il mandolino. Questa cosa mi piaceva troppo trasportarla lì, quindi tutto quanto il senso trasportarlo lì con questo andazzo del contrabbasso che fa pom, pom, pom, pom. Cioè che poi alla fine finisce con l'archetto, proprio sì, il contrabbasso suonato un po' sinfonico. Insomma, ci siamo divertiti una fracca. Ok, Max, l'ascoltiamo. L'ascoltiamo. E poi torniamo in studio, ci salutiamo e ti facciamo l'omaggio anche di far ascoltare Porta Romana. Porta Romana. Ma grazie, siete troppo gentili. Ma non sai cosa ti costa, però. Controllati. Ok, vabbè, pago pegno. Controllati il conto corrente domani. Mi raccomando. Andiamo male. Allora, sì, ci ascoltiamo da questo arrivi e partenze di Max Senzioni, questa canzone che... Partenze e arrivi. Scusami, chiedo scusa. Niente, è l'emozione. Partenze e arrivi. Non c'è problema. Impressioni di settembre. Thank you. fermo come me. Faccio un passo, lui mi vede già fuggito. Respiro la nebbia, penso a te. No, cosa sono adesso non lo so. Sono un uomo in cerca di sé stesso. No, cosa sono adesso non lo so. Sono solo, solo il suono del mio passo. Intanto il sole tra la nebbia filtra già. Il giorno come sempre sarà. Blue Time Live. Live. Eccoci qua. Max, ci siamo? Sì, sono qua. Purtroppo abbiamo finito, Max. Questa cavalcata. Purtroppo. Mi ha fatto molto piacere. Passava così veloce parlare con voi, discutere, ascoltare le canzoni. E soprattutto voi che sapete un sacco di cose del passato, belle, dovuto forse anche alla vostra età, lo posso capire. Come la nostra età? Beh, Maurizio, sai che lui ormai 60 non li aspetta più, è vicino ai 70. È vero, insomma. Perché no? Posso confermarlo, Max. No, l'età non conta per la musica. L'età. Ma qui, infatti, stasera ci sono un ragazzino. Abbiamo una band qui vicino stasera che verrà a presentare il disco fra qualche minuto. E l'età non conta, ragazzi. L'età non conta. Ci vuole passione, Max. Ci vuole passione e basta. Ma penso che siamo vicini di età, o sbaglio? Siamo tutti coetanei, sì. Ecco, appunto. Siamo tutti del gerontocomio. Ma è bello parlare con i coetanei, perché i coetanei hanno le stesse gusti, un sacco di cose che purtroppo i ragazzi oggi ignorano. Sì, questo certo, è vero. Vabbè, ricordiamo che all'interno del disco di queste 11 tracce c'è anche Io in mente te, c'è Pietra, come abbiamo accennato prima, c'è Ci vorrebbe un amico di Venditti, c'è Teorema di Marco Ferradini. Insomma, è veramente la carrellata sulle canzoni tra le più famose della musica italiana degli anni 70, insomma. Yes. Giusto. Vero. Beh. Senti, qualche snocciolaci, qualche numero e qualche nome. Allora, il tuo sito, dove si può acquistare il disco, la tua band e i tuoi prossimi live, se ce ne sono. Il sito è www.maxsenzioni.it. Che al momento potrebbe sembrare oscurato, ma quando si vede, quando si legge www.maxsenzioni.it, sito in bianco piccolino, basta cliccare lì sopra, si apre tutto quanto, perché c'era un precedente, lo stavo cambiando, allora è stato oscurato il precedente e tutto quanto. Poi che cos'altro? L'album è su iTunes, si può scaricare su iTunes, si può anche vedere il video di Bello Impossibile su YouTube, basta digitare Max Senzioni, esce il Bello Impossibile, è un video, non si può sbagliare perché è girato in mezzo alla neve e c'è un maggiolone cabriolet arancione con la capota bianca, troppo figo, che non si può non riconoscere. L'ho visto ieri. Sì, sì. Io l'ho fatto solo per quello il video, per il maggiolone. È una grande macchina, certo. Poi un mito, insomma. Grande, un mito. Un'icona. Freddo preso lì dentro, per quel momento lì, un freddo. Perché non andava il riscaldamento, un freddo pazzesco. Bellissimo. Cos'altro? Ditemi voi, non so, cos'altro devo dire. Non lo so, i prossimi live, se ne hai... No, No, infatti se c'è qualche management in ascolto a cui piace questa cosa, noi siamo prontissimi. La musica è quella, chiaramente, per coprire, lo dico proprio, per coprire una serata, quindi un live, i pezzi non sono solo quelli dell'album perché sarebbero un po' troppo pochi, ma tutto quanto verte sempre su canzoni famosissime italiane rivisitate, rilette in questo ambito, quindi folk americano. Benissimo. Allora, Max, ti ringraziamo veramente della tua disponibilità telefonica, ma sai, Alberto me l'ha scritto ancora adesso, mi dice sì, lo facciamo venire, devi venire a trovarci. Ma io arrivo perché ci faremo intanto una fracca di risate, primo. E poi, non guasta. Poi ci facciamo anche una bella cena insieme, e meglio di così. Grande! Io mi ricordo dalle vostre parti, magari un pelo più su geograficamente, tanti anni fa, la soppressa con la polenta. Ecco, è qui a Paolo. C'è ancora, assolutamente. Sì. Te la facciamo trovare, va bene. Polenta gialla, polenta gialla o polenta bianca? Era gialla. Polenta gialla con la soppressa. Era inverno, era un inverno tremendo. Io a quell'epoca collaboravo con una band della zona, veramente delle mangiate esagerate, troppo buone, troppo buone. Ce la rifacciamo qui, dai, non ti preoccupare. Grande, dico solo per quello. E per ricordare voi, chiaramente. Grazie, Max, noi ti ringraziamo veramente di cuore di aver partecipato questa sera e complimenti per il disco perché è veramente molto bello. Se qualcuno volesse acquistarlo, lo vuoi ripetere, dove lo può trovare? Su iTunes. Perfetto. Okay. Caricando su iTunes. Ci salutiamo con la canzone che chiude anche il disco, cioè Porta Romana. Io volevo ringraziare voi della grandissima disponibilità, sorpresa per ospitarmi nella vostra rubrica. Ringrazio appunto Maurizio, Agostino e Alberto, anche se sono lì con voi. Vi do un grosso abbraccio, un grosso bacio e un grosso arrivederci a più presto con me in carne e ossa, la chitarra in mano, da voi. Bene, grazie Max. Max, ciao, grazie. Allora, grazie a voi e a tutti i radio telespettatori, ecco, quelli là. Di Blue Radio. Va bene, noi finiamo qui anche la trasmissione. Maurizio, partiamo subito con la band, quindi dal folk americano al rock puro, però prima ci ascoltiamo l'ultima canzone di Max Senzioni. Ciao Max ancora. Ciao Max. Ciao a tutti, ciao Agostino, ciao Maurizio. Porta Romana bella, Porta Romana, ci stanno le ragazzine che te la danno, ci stanno le ragazzine che te la danno, prima la buonasera e poi la mano, e gettami giù la giacca ed il coltello, che voglio vendicare mio fratello, che voglio vendicare mio fratello. Gettami giù la giacca ed il coltello. a filangeri, lei è un gran serraglio. E la bestia più feroce, lei è il commissario. La bestia più feroce, lei è il commissario. La via Filangeri, lei è un gran serraglio. In via Filangeri che ha una campana, ogni volta che la suona lei una condanna, ogni volta che la suona. San Vittore le tutta sassi, l'ho fatta l'altra sera a pugni e schiaffi, e l'ho fatta l'altra sera a pugni e schiaffi. La via San Vittore le tutta sassi. Oh luna, luna, luna, che fai la spia, e bacia la donna d'altri, ma non la mia. E nel mare dei ricordi mi son tuffato, ma l'era te barbera e sono tre cose al mondo che non si scorda, la gioventù, la mamma e il primo amore. La gioventù la passa, la mamma muore, non resta che il ricordo del primo